ti conviene che gira sti in croce e ti metta a fianco a me, che ne sacci? Sì, sì. Fuggirà? No, ne, forse di, non mi sono bloccato il carrello, appena ho fatto la mano proprio se mi sono bloccato il carrello, se no gli spicci che la fa. A venire lei, a venire adesso? No, ma io che gli sta tutto su larga, ecco. Ma buono. Ecco la signora che c'ha paura! Impaurito. Oh, adesso sta a bar, al ristorante, si viste? Se ne so visto, ma quello mi ha detto, vada via, ecco sotto, qui sopra, ma non manazzo, tu mannazzo, boh. A sinistra, che sta al ristorante, bar. Sì, se ci mettiamo a cuci per l'onda, che cazzo fa? Solo se ne riesce a capire di buttare le spicci con la cabina. Se non riesce anche questo per girare la cava bella, ma le spicci con la cabina. E a Cristo, ero uscito pure da là. E me ne sono venuto qua sopra, io, a meno 20, perché a cucina all'1 meno 20 potevamo partire. Sono facendo ora. Sì, ma con l'uomo le sale queste malecche. Tu dai la lavata, una cosa, mettete qua a destra, allurate, anche la latte dell'acqua, belle avete, devi lasciare qua, io mi sono sciacquato là sotto, mi sono cagnato. Sì, sono questi cangisti vecchio tuo, sono partito, una cosa, ne tiro un po' l'acqua. Dai la latte con lo tubetto, con bella sciacquata, porto un po' di sapone, liquido, se l'estero sono la pasta alla mano. Ricordo con il panino di ieri sera che mi sono fatta. Poi mi sono usato la camia, poi apri il puzzetto, senti che poi apri, gorgi la faccia, ma poco ci manca, sono buzzonito. Tengo a fare il scopone perché la muccicana l'avevo occupato, ma mi rotolo con le mariglie, poi apri la buzza. Ho mandato le frena qui, tutti leggero. Tanto te ne me lo sei per niente. Sai che mi uscivo, ma io per forza a destra, non qua. Sì, a destra, dopo potevamo fare con l'uscita quelle che abbiamo fatto prima. Scemo, vedremo se potevamo entrare e arriviamo a Montepiacco. Se è entrato il bustone? Non ci sono provato, perché quello è la pacca della valvola. Ma se poco a poco andremo a cacchia e visce però io. Bravo. Hai messo la tabella. A te no, ma io non credo che a me me lo fa scaricare se la ricarica cacca di madre. Sì, scaricare si può scaricare, ma qui già per caricare li ha fatto passare senza oggi, ma come cazzo si fa? Se le levo per camminare, quando sono da te parte, dopo con una cammina e un'altra c'è del dom. Allora una mano c'è nei cani facendo lo stick di per che se ne ricarica il somma, e quanti che ci mancano danni? Tu non è che ci sei fuori portata. Ma la lettera faceva bene. 22. E che l'altra che pare che era più con quello, mettiamo 25, 25, 50. 50, 75, 125. 125. E 3 quando faceva lo scavatore? 300? 30? 340. 340. 440, 465, un'altra 10 contare lo 10, no, 20 contare lo stick. 470, 480. 340, compreso lo stick, l'ha appena. Stitti. Solo lo scavatore, quando l'ha acchiappato quello, quando ha fatto? Ha detto 320. Oh, allora 340, mettiamo che tutto lo stick e tutto quello. 340, 125, 465. 75 la zavolta, penso. E 50. Allora ci stengo pure io, poi mettiamo pure che ha fatto 200 quant'anni guarda, ma fa 195 che la sono pulsata le dente. 340. 340, meno 75. 4, 3, 270, giusto. No, 265 per questo sottile. Con quest'altro martello, no, ma che cazzo può fare? No, esagerate di secondare. Esagerate. Gli ha messo pure 280, 8, 8, 16. Stringano l'ima da così. Tanto questo era previsto che si deve caricare anche tutta la zavorra, quindi. Ma qui siamo sempre messo un po' di tempo, ma che ne va quattro vite che cazzo ci siamo messi, però siamo più sicuri, cioè, se questo lo può portare perché è una rischia. Claudio. Vabbè, sentiamo dopo però, non è troppo presto. qualche problema, tanto sbagliato con banchio, quindi sono andato la mamma adesso si fa un po' il sistema un po' di come si chiama qua. Si chiama dopo là. Ok. Io anche io sto salendo laggiù, adesso che stacco molto, adesso mi trai un attimo. Via, vabbè, ci sentiamo dopo, ciao. Via, ok, a dopo, ciao. La radio sempre la stessa, che ho attaccato il capo. Sì, a voglia, sempre uguale, sempre uguale. Perfetto. Va bene, vuol dire già funziona ancora. Ci sentiamo dopo, Antonio, un'oretta, vai. Tu mi dai un po' ce li ho sapetti, ciao. Va bene, non c'è problema. Vabbè, qua ma è. Ti sento basso, chi è? È molto basso, sta arrivando Nicolo, ciao, buonasera. Molto, molto basso. Ti ascolto proprio a livello QRM, molto basso.